Il meeting è nato 7 anni fa, avevo incominciato con tematiche forse un po' troppo teoriche e generali, e ogni anno man mano che passano gli anni prende dei temi sempre più particolari. Quest'anno abbiamo voluto affrontare il tema dei diritti, proprio perché il discorso dell'emigrazione in Europa non è più un discorso congiunturale legato a dei momenti economici particolari di crescita o di crisi, ma è diventato ormai un fenomeno strutturale per l'Europa stessa e per l'Italia in particolare. Quindi se ci sono, come ci sono, 15 milioni di cittadini o di persone non comunitarie che risiedono in Europa, significa che questi 15 milioni di persone devono essere considerati come soggetto di diritto e non semplicemente come manodopera o come forza lavoro. Da qui appunto l'insistenza sul tema dei diritti. Abbiamo cercato di fare un programma abbastanza globale, partendo proprio questa mattina dall'analisi del diritto internazionale sui migranti, cominciando dalla Convenzione dell'ONU, passando alle varie iniziative legate in particolare ai lavoratori della International Labour Office, alla legislazione europea con i suoi andi rivieni di apertura e di chiusura, e abbiamo avuto la presenza anche di Savino Pezzotta, che ha fatto un po' il punto sulla situazione internazionale, in particolare italiana, legata sia alla Bossi Fini come al dibattito italiano su questo argomento. Sta di fatto che c'è una tendenza in Italia e anche in altri paesi europei a giocare al ribasso sui diritti, ma se non si gioca al rialzo invece sui diritti rischiamo proprio di creare delle situazioni esplosive nei nostri stati, nei nostri paesi. Cercheremo poi di affrontare alcuni diritti che oggi sono di grande attualità, per esempio il diritto di asilo. In Italia non abbiamo ancora una legge sul diritto d'asilo, è in dibattito. Tenteremo di capire cosa significa un diritto di partecipazione politica da parte degli immigrati alla vita delle nostre città e dei nostri paesi. Ecco allora il cosiddetto diritto di voto, cercando di inquadrarle in un dibattito più largo che non in quello italiano, un dibattito europeo, proprio sul diritto di cittadinanza e residenza. Cioè ci si chiede, il cittadino, essere cittadino è legato solo ad una nazionalità oppure è legato alla vita che queste persone conducono sul nostro territorio, nei nostri paesi, nelle nostre città? Cittadinanza uguale residenza oppure cittadinanza uguale solo al vecchio concetto ottocentesco di nazionalità? Questi sono un po' i dibattiti che cercheremo di sviluppare nei prossimi giorni.